Maria, non te ne andare, lasciami un posto per riposare, lasciami un posto nella tua strada, lasciami un posto perché sto per partire. Lei mi porta in giro a farmi vedere ed è contenta, contenta di me. Mi regala campanelli e me li mette in testa, mi cosparge di profumi il giorno della festa, mi dipinge le labbra con riflessi di sabbia e bacia il mio nome con raggi di sole. Maria, Maria, non te ne andare, lasciami un posto per riposare, lasciami un posto nella tua strada, lasciami un posto perché sto per partire. Dice sempre buongiorno nelle ore più strane, mi accompagna nel sogno e accarezza il mio nome. Ha due stelle nel petto che ispirano un canto, ha una galassia che cambia col sudore del pianto. Ha lasciato l'età sopra una nave e i suoi giorni trascorrono come al vento le vele. Maria, Maria, non te ne andare, lasciami un posto per riposare. Lasciami un posto nella tua strada, lasciami un posto perché sto per partire. Thank you.